Immagina che stiamo avanzando nella strada che illumina il tempo, ognuno con le sue debolezze, il suo gusto, tutti per uno, tutti per un mondo più giusto. Le madri con i figli nel grembo, i ladri, i figli del vento, i ciechi, i divorziati felici, i marinai infedeli, le mogli infelici, i minatori che sputano sangue, i senza tetto, gli abbonati a niente. Immagina che stiamo crescendo. Da dove vieni? Dove stai andando? Sono in pochi a prenderci gusto. Tutti per uno, tutti per un mondo più giusto. I padri che non amano i figli, i figli concepiti come imbrogli, i poeti ladri della luce, i viandanti umili della pace, i passeggeri che fanno la fila per non partire, i silenziosi che fanno a botte per non parlare. Immagina quanto di quanto dolore sparso nel mondo per un inutile traguardo di fango. È meglio perdere che vincere rubando. Concubini come colombe abbracciati, faccendieri senza scrupoli perduti, maestri di seconda classe arenati, alunni che non li hanno mai capiti, filosofi che danno verbo alla parola, scrittori che hanno perso la memoria. Immagina il giorno arriverà e rideremo dignità la dignità. Saremo tutti nella luce, tutti nel fasto, tutti per uno, tutti per un mondo più giusto. Le madri con i figli nel grembo, i ladri, i figli